Capitolo 13. Coppia di opposizione minimale. M, nasale bilabiale semplice, doppia M, nasale bilabiale geminata. Esercizio 1. Ascolta le coppie di parole facendo attenzione alla pronuncia della M e della doppia M. 1. Fumo. Fummo. 2. Mama. Mamma. 3. Andremo. Andremmo. 4. Camino. Cammino. 5. Comando. Commando. 6. Soma. Somma.